van de kiertje mappesau, ratia piau. Taj prelazi Donau, taj pel, ti krešave. Van de kiertje mappesau, ratia piau. Ma pazzoli, de ma lascirò mioi, lascirò ogni romani, so manca me la. De ma bella, de ma pazzoli, de ma lascirò mioi, lascirò ogni romani, so manca me la. Cana sta maschietane, per iame tu gene, penda mangi come sma, dai, ci mette sma. Cana sta maschietane, per iame tu gene, penda mangi come sma, dai, ci mette. De ma lascirò mio lì, lascirò ogni romani, so manca me la. De ma faccio lì, de ma lascirò mio lì, lascirò ogni romani, so manca me la. Muro traio tu calau, le chavore chorarau, le vorbeie pasarau, tai, ma misterau. Muro traio tu calau, le chavore chorarau, le vorbeie pasarau, de ma pastori, de ma lascirò mio ri, lascirò ogni romani, so manca me la. De ma pastori, de ma lascirò mio ri, lascirò ogni romani, so manca me la. De ma battori, de ma lascirò mio ri, lascirò ogni romani, so manca me la. De ma battori, de ma lascirò mio ri, lascirò ogni romani, so manca me la.